Europa 24. E ancora buona giornata da Anna Migliorati. Arrivati da Bruxelles, come sentivamo anche in GR24, i fondi per l'occupazione giovanile. Oggi seconda giornata di vertice per i capi di stati di governo dei 27, che tra l'altro da lunedì diventeranno 28. Ci sono anche altri temi sul tavolo che ora andranno affrontati. Allora, com'è andata, ma soprattutto come sta andando e cosa ci aspetta? Lo chiediamo, ci aspetta ancora a Bruxelles Sergio Nava. Sì, buongiorno da Bruxelles, dove ormai si avvia la conclusione del Consiglio europeo d'estate. Ieri sera il varo del pacchetto per l'occupazione giovanile, 6 miliardi già accantonati per l'iniziativa europea per i giovani e spalmati su solamente 2 anni, nel biennio 2014-2015, più grazie all'intesa definitiva sul bilancio europeo di ieri, altri 2 o 3 miliardi a partire dal 2016, che saranno spostati grazie alla maggiore flessibilità dei capitoli di spesa non utilizzati su altre politiche, e saranno spostati appunto nella lotta contro la disoccupazione giovanile. Fonti della Commissione europea hanno spiegato che non ci sarà alcuna assegno in bianco ai singoli paesi per l'utilizzo dei fondi che l'Europa metterà a disposizione per combattere la disoccupazione. Ora le amministrazioni nazionali dovranno predisporre i programmi operativi per impegnare le risorse, hanno precisato fonti della Commissione. E siamo qui con Enrico Briglio, giornalista del Sole 24 Ore, storico corrispondente a Bruxelles. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Ci si poteva attendere qualcosa di più, secondo te, dal piano contro la disoccupazione giovanile? Ma diciamo che in fondo le risorse non sono poi così esorbitanti per 27 paesi, insomma 6 miliardi messi a disposizione in 2 anni, però diciamo che quantomeno sembrano questa volta dei soldi concreti, veri, insomma. Se pensiamo che l'anno scorso si era parlato di un mega piano di 120 miliardi per attivare investimenti e crescita, perlomeno in questo caso le risorse sono più circoscritte ma più mirate, e già i governi sono stati invitati a presentare dei progetti dall'inizio dell'anno. Quindi risorse forse non molte, però perlomeno sembra che si vada un po' più in profondità. Enrico, resta con noi, sentiamo ora però quello che ha detto ieri sera verso 1 di notte il premier Enrico Letta uscendo dalla prima giornata del vertice, sentiamo. Ma mi sembra bene, la parte principale dell'accordo è realizzato, sia la parte sulla lotta alla disoccupazione giovanile sia la parte sul bilancio, quindi sono molto contento. Un negoziato non facile perché c'è stato il duro scontro con il tema del rimborso britannico, ma insomma ne usciamo tutti bene, quindi sono contento. E domani abbiamo la parte sulla unione bancaria, sulla governance economica. Riusciamo a ottenere più di quanto si pensava, nel senso che c'è un'aggiunta probabilmente di 3 miliardi di euro in più rispetto a quanto era previsto nel front loading della Youth Guarantee, quindi un risultato sicuramente positivo. Adesso domattina bisogna fare le ultime verifiche, gli ultimi aggiustamenti, però sono molto contento di questo risultato che abbiamo raggiunto. Il ruolo della BEI funziona, funzionerà, va bene così. Concretamente questi 3 miliardi come si raccoglie? Rivedremo domani. Presidente, ci dica solo cosa hanno concesso, cosa avete concesso a Cameron in cambio del veto. No, semplicemente la riapplicazione delle decisioni che avevano preso a febbraio, che dovevano essere poi applicate, le decisioni sul bilancio che avevano preso nel Consiglio di febbraio dovevano essere applicate, ovviamente lui ne chiedeva l'applicazione. Enrico Briglio questa mattina al centro, lo ha detto poco fa il premier Enrico Letta, l'unione bancaria è un progetto ancora in divenire tra molte difficoltà. L'Europa sta riuscendo, secondo te Enrico, a costruire un sistema credibile e sicuro per evitare che le crisi bancarie intacchino i debiti nazionali, ma soprattutto non c'è forse una sproporzione esagerata tra i fondi destinati alle banche e quelli destinati all'occupazione giovanile? Beh, sì, diciamo che si sta facendo qualche passo importante, e il ritmo è sempre un po' troppo lento rispetto a quelle che dovrebbero essere le necessità dei mercati per dare garanzie ai mercati e soprattutto ai cittadini. Comunque qualche passo avanti si è fatto, si è finalmente riuscito a sbloccare un po' il protocollo per il salvataggio delle banche, delle grandi banche, stabilendo che con quale gerarchia si dovranno essere persone che vi partecipano, a partire dagli azionisti e dai correntisti, e molto meno la mano pubblica, quindi il contribuente. Però va detto che in effetti anche questa rete si sta creando con una certa lentezza, diciamo. Speriamo che ci siano delle altre accelerazioni. Del resto ci sono esigenze di un tipo a molto rigore, gli inglesi che invece non hanno proprio scienza. Sono Federico Taddia e oggi voglio parlarvi dell'ingresso della Croazia nell'Unione Europea dal 1 di luglio. Per celebrare l'evento e presentare il paese ai cittadini europei, il presidente del Parlamento Martin Schulz e il primo ministro croato Zoran Milanovic hanno inaugurato ieri la mostra Welcome Croatia, 38 fotografie di Damir Fabianic che mostrano la bellezza e la diversità del paesaggio e del patrimonio del nuovo membro della grande famiglia europea. E se siete dei veri appassionati, la Commissione europea vi dà la possibilità di votare il miglior scatto della Croazia con il concorso Surprising Croazia, collegandovi al sito croazia.eu. Da Bruxelles è tutto, salutiamo anche Enrico Brivio. Diciamo solo che il premier croato Zoran Milanovic ha detto: si chiude con questo un lungo viaggio della Croazia per arrivare all'Europa. Ora aiuteremo i nostri vicini a fare anche viaggi più brevi verso l'Unione Europea. Da Bruxelles è tutto. Grazie a Sergio Nava. L'Europa vi aspetta, vi ricordo, alle 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.